Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, come avete sentito, il ministro degli esteri tedesco parla, riferendosi a ciò quanto sta accadendo in Ucraina, di crisi più grave conosciuta dall'Europa dopo la caduta del muro di Berlino. Quindi, insomma, un momento che viene vissuto per la sua gravità storica, per le implicazioni e anche per le di fatto per le divisioni che si stanno affermando nei governi, nelle cancellerie, al di là della posizione comune, quindi dell'invito alla prudenza, in particolare ovviamente alla Russia, restano profonde divisioni. Allora, su questo punto Valeria De Rosa ha contattato Pino Arlacchi, europarlamentare in quota al Partito Democratico. Sentiamo allora cosa ne pensa l'europarlamentare. Abbiamo chiaramente due posizioni. Da una parte l'Italia e la Germania sull'Ucraina, con una linea di prudenza e di ragionevolezza, ed è di fatto una presa di distanza dall'altra posizione più estrema, che è la posizione francese e anche quella di Kerry e della NATO e anche quella dei media europei. Secondo lei queste due posizioni potranno trovare una sintesi? Non lo so, c'è una notevole divisione che si approfondirà o si affievolirà a seconda di quello che succederà nell'Ucraina stessa e a seconda di quello che farà la Russia. Putin è convinto che c'è una grossa cospirazione antirussa da parte della Unione Europea e degli Stati Uniti e della NATO sull'Ucraina e che si sta sviluppando un'azione di minaccia degli interessi della Russia stessa. Giusta o sbagliata che sia, questa è una convinzione profonda che bisognerà assolutamente rimuovere per aprire la strada a una soluzione politica e non alla catastrofe. Il Consiglio Affari Esteri, peraltro, è iniziato circa 15 minuti fa. Naturalmente, come dire, si attende l'esito, anche se la sensazione, appunto, che a emergere sarà poi quella che è stata indicata già come la posizione tedesca e italiana della mediazione, del tentativo, appunto, di de-escalation che invece si è verificata nelle ultime 48 ore. A proposito di contenziosi, molto meno drammatico quello tra Europa e Svizzera dopo il referendum sull'immigrazione del mese scorso. Ieri il consigliere federale svizzero Simonetta Sommaruga è stata incontrato a Bruxelles. Ieri questa mattina le autorità dell'Unione Europea dice: sono venuta a informare che in Svizzera non si è votato contro l'immigrazione ma su un nuovo sistema di immigrazione. Nei prossimi 3 anni, ha detto il consigliere federale, non cambierà nulla. L'accordo sulla libera circolazione delle persone sarà mantenuto. Insomma, anche qui attività di diplomatiche. Oggi è anche giornata, poi tutto quanto è passato in secondo piano rispetto appunto alla cronaca che avviene dall'Europa centrale e dell'Est, ma secondo l'agenda doveva essere la giornata del vertice sulle politiche ambientali europee. E in questo senso abbiamo e vi facciamo sentire un breve punto che fa per noi Isaac Valro Ladron, portavoce di Conny Edegar, quindi commissario all'azione climatica, su un dato di Eurostat. Parla in sostanza del fatto di come 4 europei su 5 ritengano che la lotta al cambiamento climatico sia uno strumento di crescita economica per tutto il continente. Sentiamolo. Bueno, el resultado de nuestro de esta encuesta a nivel europeo demuestra que 4 de cada 5 personas en la Unión Europea considera que la lucha contra el cambio climático y el uso de los recursos energéticos de una manera más eficiente aiuta l'economia e crea empleo. Ecco, come sentite, dunque dovrebbe essere piuttosto comprensibile. 4 europei su 5 ritengono appunto che la lotta all'azione climatica non sia solamente un fattore positivo in sé, ma soprattutto un fattore di produzione di impiego. Di fatto questa indagine di Eurostat rafforza un po' quella che è la posizione della Edegar, secondo la quale l'Europa potrà sostenere la sua crescita economica soprattutto, o meglio anche grazie all'investimento nelle tecnologie verdi. E ancora, dal punto di vista culturale, molte persone in altri paesi del mondo hanno molto più rispetto dell'Europa di quanto ne abbiamo noi europei di noi stessi. Così questa mattina Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, intervenendo a una conferenza a Berlino. Gli ucraini sono andati anche incontro alla morte con la bandiera dell'UE in mano a Piazza Maidan per i nostri valori, mentre da noi europei pensiamo che sia tutto scontato, come la corrente elettrica che prendiamo dalla presa e nulla abbia realmente valore. Questo era Martin Schulz questa mattina, ovviamente presidente del Parlamento europeo a Berlino. E con questo è tutto. La linea allo sport. Europa 24 torna domani. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.